soprattutto in questa reazione, l'ossosintesi, che dei due prodotti previsti, cioè l'aldeide terminale e l'aldeide sostituita, l'aldeide terminale è quella che si forma più velocemente, meglio, diciamo così. Reazione importantissima da un punto di vista di chimica industriale, perché tu aggiungi un atomo di carbonio, quindi fai da una molecola più piccola una molecola più grande. E questo è l'obiettivo della Green Chemistry, non è l'obiettivo contrario, prendere una cosa e distruggerla eliminandone i pezzi. Siccome il prodotto finale è un aldeide con un atomo di carbonio in più della struttura principale, questo è un composto che costa di più. Quindi era importante riuscirlo ad ottenere. Prima dell'ossosintesi, questa reazione poteva essere fatta, ma in step diversi. Quella che si chiamava tecnicamente l'allungamento, l'omologazione della catena degli atomi di carbonio di un'unità C1. Prevedeva di fare dall'alchene l'alcol antimarconico, sovente con l'idruro di boro e l'ossidazione con acqua ossigenata. L'alcol veniva trasformato in cloruro, del cloruro ci facevi il grignard, del grignard ci facevi la carbonatazione e l'acido che veniva fuori lo riducevi attraverso il cloruro dell'acido ad aldeide. Cioè, è tanta roba. Allora, con l'ossosintesi si fa in uno step solo. Questa è una reazione che è una reazione multicomponente perché si mette nel bulk di reazione il nostro alchene, ci si mette l'ossido di carbonio, ci si mette l'idrogeno, ovviamente il palladio su carbone, senza il quale, o meglio no, scusate, il catalizzatore, che questa volta sceglieremo un catalizzatore di rutenio. Vedremo perché il rutenio sì e il palladio su carbonio no, che ci permetterà di fare la reazione. Allora, una delle cose che abbiamo visto nei 12 punti della Green Chemistry era: ci piacciono tanto le reazioni catalizzate con il catalizzatore in quantità catalitica. Questo ne è un esempio. Quindi, non solo non buttiamo via nulla, non ci sono sottoprodotti. La reazione ha una grande regiochimica, quindi non buttiamo via niente, non dobbiamo fare spese per distruggere i sottoprodotti eventuali, ma il rutenio, con i suoi leganti, è un catalizzatore di basso costo. Se noi mettiamo insieme tutte queste cose, tutte insieme, ovviamente ci sono due gas, che è l'ossido di carbonio e l'idrogeno, a volte l'alchene è anche lui gassoso, ma a volte no. Faremo questa reazione in un autoclave. Vedremo successivamente che possiamo fare questa reazione non in autoclave, ma utilizzando dei solventi particolari, ma quello lo vedremo quando useremo i solventi particolari, i solventi alternativi nella Green Chemistry. Vediamo se riusciamo a capire bene qual è il meccanismo di questa reazione. Allora, il rutenio ha, e lo metto tra parentesi quadrate, una serie di leganti appiccicati. Non ci interessa in questo istante sapere che tipo di leganti ci sono. Ci sono un sacco di catalizzatori a rutenio che possono aiutarci a fare queste cose. Rutenio carbonili, rutenio fosfine, di tutto di più. Vedremo però che il rutenio è fondamentale e il rutenio è sostanzialmente un metallo soft, cioè un metallo che quando vede una cosa soft fa l'unica cosa che i metalli di questo tipo possono fare, cioè la reazione di addizione ossidativa. Vi ricordo che la chimica degli organometalli, dei metalli di transizione, è basata su due cose. Una è il contrario dell'altra, l'addizione ossidativa e l'eliminazione riduttiva, facendo passare il metallo da uno stato di ossidazione X a uno stato di ossidazione X più 2, per poi farlo tornare a uno stato di ossidazione X, cioè una variazione di 2. Perché? Perché l'addizione ossidativa è di questo tipo. Tra tutte le cose che ci sono in questa barca di reazione, c'è un alchene polarizzato, più delta, meno delta. C'è un doppio legame CO, che sicuramente è più delta, meno delta, sull'ossigeno, forte. E poi c'è un idrogeno, che è sicuramente la cosa più covalente di tutte. Quindi è la cosa più hard che c'è, più soft che c'è, scusate. La reazione di addizione prevede che il rutenio diventi rutenio idruro. Ci sarà una serie di leganti che scrivo LN qui attaccati. Il rutenio idruro ovviamente si guarda intorno, è un legame polarizzato, l'idruro è un idruro soft, perché la differenza di elettronegatività che c'è tra l'idrogeno e il rutenio non è tanta in queste condizioni. E quello che accade è che il rutenio idruro fa le stesse cose che potrebbe fare un palladio idruro, un boro idruro. Prende l'alchene e ci si aggancia sopra. Quindi rutenio idruro e alchene, la reazione, che è una reazione, ballate bene, di equilibrio. Mi piace scrivere con un pennarello che scriva più grosso. RCH, CH2. Un H, un idrogeno si appiccica qua, e l'altro, con i leganti che sono qui, si attacca qua. Cosa che avrebbe fatto anche la banale reazione di Carl Herbert Brown sugli alcheni. B2H6 o BH3 tetraidrofuranato sul doppio legame carbonio-carbonio. La cosa avviene così per due motivi fondamentali. La regiochimica della reazione è legata all'ingombro sterico. Questa palla di rutenio con i suoi leganti preferisce essere agganciata qui che non qui, per problemi sterici, ma anche per problemi elettronici. E un idrogeno attaccato al rutenio è un idrogeno idrurico, quindi vale meno, mentre il rutenio è, da questo punto di vista, ha una parziale carica positiva su se stesso. Quindi, siccome l'alchene è polarizzato CH-CH2 più delta meno delta, il risultato finale della reazione è questo. La reazione è reversibile, quindi ci sta che questo signore torni indietro, e ci sta anche che un pochino di questo signore faccia il prodotto che in questo istante sarà un prodotto legante non desiderato, che è questo. Ma le due velocità di reazioni sono in forte competizione tra di loro. Questa è molto più probabile per motivi stereo elettronici. Beh, questo signore si guarda in giro e dice: io sono il rutenio idruro. Questo rutenio idruro, che è attaccato al gruppo al carbonio con tutta la sua molecola che gli viene dietro, ha aumentato un pochino la sua hardness e quindi si può interagire con un altro legante che c'è in soluzione, che è l'ossido di carbonio. L'ossido di carbonio nel doppio legame carbonio-ossigeno è hard, quindi non potrebbe mai reagire col rutenio. Quello che attacca il rutenio è il doppietto del carbonio, che poverino è soft perché la sua natura è quella, cioè non è, è un doppietto, è come fosse quasi un doppietto dell'ammoniaca, se vuoi, no? Non è un NH2-, è un NH3. Quindi da questo punto di vista lo possiamo indicare come soft. Ci dobbiamo attendere che sia lui che attacca il rutenio, ci saranno i leganti, ci sarà il CO. Ovviamente, guardate, sull'ossigeno ci sono dei doppietti di elettroni. Quando questo fa così, la carica positiva del carbonio tende a fare questo, no? Un po'. Quindi, se volete, lo potete scrivere anche così. Più H. Guardate che questa situazione qui è, scrivo la sua formula limite di risonanza, identica a un'altra cosa che noi abbiamo già visto. Ci saranno i leganti, ci sarà l'idruro, ci sarà il CO più meno, perché qui c'è un meno ovviamente. Il rutenio in questa struttura ha preso un doppietto di elettroni, quindi si è comportato da acido, perché ha gli orbitali D a a bassa energia vuota. Il CO si è comportato da base dando il suo doppietto non condiviso di elettroni. Questo è il risultato. Vedete, qui c'è una formula di legge di risonanza. Questa cosa qui, ma io noi l'abbiamo già vista. L'abbiamo già vista in modo completamente diverso. L'abbiamo già vista però quando facevamo la reazione di Carl Herbert Braun per fare gli alcoli anti-Markovnikov. Noi partivamo dagli alcheni, aggiungevamo all'alchene l'idruro di boro con due zampette. L'idruro di boro poi lo facevamo reagire con l'acqua ossigenata sotto forma di sale dell'acqua ossigenata e ottenevamo questo. Vedete, il boro è caricato negativamente, il ruterio è caricato negativamente. A questo punto c'era una reazione di trasposizione per cui questo CH2 con i suoi elettroni e la sua chiralità andava sull'ossigeno e buttava fuori l'OH-. Guarda qua. Ruterio meno carbonio, addirittura più, se vuoi. Quindi quello che succede è che questo finisce qua sopra e il risultato di questa reazione, te lo scrivo sopra, questa non ci serve più, era solo per ricordarci che tutto il mondo è paese e che la reazione di Brown altro non è che la finale di questa reazione, CH2, C doppio legame O, ruterio con i suoi leganti, idrogeno. A questo punto capite bene che il carbonio e l'idrogeno in questo contesto, avendo la stessa softness, permettono di fare quella che è la reazione di eliminazione riduttiva, cioè il ruterio con i suoi leganti torna in circolo e io di qua ho il mio prodotto finale che è RCH2CH2CHO. Questa reazione non ha altra possibilità. Per esempio, noi potevamo pensare che una volta ottenuto il primo idruro di ruterio per addizione del ruterio idruro sul doppio legame dell'alchene, ci poteva essere una reazione di eliminazione riduttiva e in effetti qualcuno trova come sottoprodotto il prodotto di riduzione dell'alchene ad alcane, ma è poco. Ma poco vuol dire poco, pochissimo, perché questi due composti, cioè questi due pezzi, questi due moieties della molecola, l'H- e il C-, non hanno la stessa softness. E quindi i loro orbitali non si sovrappongono durante la reazione di eliminazione e quindi quello che accade, accade male. Cioè non si ha a questo livello la reazione di eliminazione, ma quando un carbonio si è appiccicato al ruterio, ecco che queste due parti hanno una softness identica e quindi il carbonio tende ad agganciarsi a quest'altro carbonio. Solo dopo io avrò un idruro che lentamente, però non gli è rimasto altro da fare, lentamente nella velocità di reazione, si aggancia al carbonio, che diventerà il carbonio carbonilico. Non può succedere quindi che qualcosa succeda prima o succeda dopo, perché la softness non te lo permette. Allora, qui si capisce in questo meccanismo che noi abbiamo messo dentro tutto, l'idrogeno, l'ossido di carbonio e l'alchene, e ovviamente il catalizzatore. E succede tutto in un colpo solo, ma allora a me serve un metallo di transizione che faccia un metallo idruro. Perché non ci metto il palladio? Perché ci potrei mettere anche il palladio? Perché non ci metto il nickel? No? Perché la posizione del ruterio rispetto alla posizione del palladio e del nickel è diversa. Quindi il nickel, il platino e il palladio sono sostanzialmente tetracoordinati planari. Il ruterio c'ha un sacco di roba appiccicata addosso e non può essere tetracoordinato planare. C'ha dei leganti in più. Questi leganti in più prevedono che il ruterio, qui, a questo livello, con tutti i suoi leganti, si posizioni in modo tale che non possa fare quella cosa che farebbe il palladio. Cosa farebbe il palladio qui? Vediamo. Quando voi avete una situazione del genere, leganti R, quello che fa il palladio, che è planare quadrato, tende in ogni caso a prendersi questo iduro per dare una reazione di beta eliminazione, perché qui c'è un orbitale vuoto che può fare questo lavorino qui, che è la reazione inversa di addizione del palladio idruro al che. E ruthenium lo può fare, perché qui questo orbitale non ce l'ha, perché è occupato da un altro legante. Ecco perché abbiamo usato il ruthenium. Al di là del fatto che ruthenium avrà una softness completamente diversa, che possiamo modulare sul tipo di leganti che attaccheremo a ruthenium, ma questo è un discorso che qui non facciamo perché non è un corso di organometalli. Però questa cosa va visto, che bisogna sottolineare quelli che sono i vari step della reazione e farvi capire perché non accade il contrario. E quindi noi possiamo usare questa reazione a livello industriale, perché siamo sicuri che non ci incasinerà la vita con i sottoprodotti. Ecco, questa è una differenza fondamentale, fondamentale. In questo contesto noi, con questa reazione di ossosintesi, riusciamo teoricamente a modulare quella che è la reattività dei diversi passaggi, facendo in modo che il catalizzatore non faccia altre cose. Si scopre, e lo scopriremo anche nei prossimi esempi, che quando noi mettiamo un catalizzatore, sovente un metallo di transizione, dentro un bulk di reazione perché gli vogliamo far fare un certo numero di cose, scopriamo che le velocità di reazione, pur essendo estremamente elevate con il catalizzatore, sono estremamente differenziate tra di loro come velocità di reazione, cioè sono tutte rapide, ma una è rapidissima, una è un po' più rapida, una è meno rapida, una è rapidina. Quindi alla fine ottieni sempre una buona catalisi, ma il metallo di transizione ha selezionato con la sua velocità le cose che vuol fare. Faremo sicuramente un altro esempio, almeno oggi. Un'altra reazione che può essere usata per fare un prodotto pulito, ma mettendo insieme un sacco di cose, è questa reazione. Noi ci abbiamo l'acetilene. Bene, l'acetilene ci metto dentro anche aldeide formica, ma ci potrei mettere anche un'aldeide diversa, anche un chetone se volete, un composto carbonilico in generale, e poi ci metto dentro dello ioduro di metile e una base che potrebbe essere trietilammina, eti. Trietilammina mi piace poco perché non mi basta come base, devo usare una base più grande, più grossa, perché devo eliminare questi che sono gli idrogeni acidi nella reazione. Quindi per ora ci scrivo B meno, poi vediamo qual è la base che useremo. Nel bulk di reazione si mette tutto insieme, cioè l'acetilene, B meno, e la prima cosa che accade è la formazione del dianione dell'acetilene. E poi a sbroscio una miscela di questi due. A sbroscio, cioè è un modo di dire toscano per dire ci butti dentro tutto. Se vuoi ce ne metti uno per volta, ma ci puoi mettere dentro tutto ugualmente. Perché? Perché da una parte il dianione dell'acetilene si legherà alla molecola del carbonile, e quindi avremo HHO, l'aggancio e la formazione di C meno, doppio legame CHHO meno. Se in secondo luogo lo ioduro di metile si aggancerà con questa molecola e formerà metile C, triplo legame C, CH2O meno, che poi dopo idrolisi butterai tutto in acqua idrolizzerai e otterrai questo composto. Ora, questo composto non è mica tanto banale, perché se noi avessimo voluto fare una sintesi classica, avendo paura che si potessero formare diversi prodotti, avremmo fatto le cose step by step, e soprattutto a livello di formazione di questo composto, cioè del dianione, dell'alcol acetilenico, che ha due anioni, uno sull'ossigeno e uno sull'idrogeno acido dell'acetilene, mettendoci dentro lo ioduro di metile, avremmo avuto paura che lo ioduro di metile si attaccasse anche qui sull'ossigeno caricato negativamente, che è un ottimo nucleofilo, facendo una reazione di Williamson, cioè la formazione di eteri in ambiente basico. Ce ne siamo strafottuti. Qual è il motivo fondamentale? Il motivo fondamentale è che lo ioduro di metile, proprio perché il metile è attaccato allo iodio, è soft. Quindi il suo orbitale di antilegame è grande. Qui abbiamo in realtà un ossigeno con la carica negativa che sicuramente è hard, perché avrà l'hard nel grosso modo dello H-. E un carbonio negativo che sicuramente non è softissimo, ma è sicuramente molto più soft dell'ossigeno meno. Perché ti dico non è softissimo? Perché questa carica negativa chi ce l'ha? Ce l'ha un orbitale sp, che sicuramente è più piccolo di un orbitale sp2, che è a sua volta più piccolo di un orbitale sp3. Quindi l'orbitale sp dell'acetilene è hard rispetto sicuramente al triplolegame carbonio-carbonio, che è estremamente polarizzato e che quindi è soft. È vero che quindi la carica negativa sul carbonio è hard, ma la carica negativa sull'ossigeno è estremamente più hard. Quindi, usando un alogenuro come lo ioduro, io dico praticamente allo ioduro di metile: attaccati sicuramente solamente a quello che è più simile a te. Chi è più simile allo ioduro di metile? Il carbonio caricato meno, non l'ossigeno caricato meno. Avrei rischiato a mettere dentro qualcosa come il CH3Cl, perché il cloro era un sostituente del carbonio più piccolo, l'orbitale vuoto CCl, dove la carica negativa dell'archilo sarebbe finita, era più piccolo e quindi più hard, e quindi ci poteva essere competizione con l'ossigeno. Io ci ho messo qualcosa di estremamente grande, uno ioduro. Avrei potuto usare un tosilato, CH3OH, lo trasformo in CH3O tosile, cioè paratolo enzolfoline, e voi sapete che la chimica vi insegna, vi dicono che il gruppo tosile è un buon gruppo cosciente, è un pseudoalogenuro, dice qualcuno, si comporta come un alogenuro. Perché? Perché il buon gruppo cosciente ha una caratteristica: esce sempre come base, cioè deve essere una base debole, perché il suo acido coniugato deve essere un acido forte. Che cosa vuol dire questo in termini di orbitali? Che l'orbitale di antilegame, il carbonio o qualcosa che esce, deve essere grosso, perché l'anione che esce deve essere stabilizzato, quindi la carica negativa deve stare su un orbitale grande. Quindi tutto ciò che riguarda le reazioni acido-base è va visto come: dimmi come sono fatti gli orbitali e ti dirò se sei un acido o una base forte. Ecco, in questo contesto quindi lo iodio, che è più grosso, come ioduro è una buona base uscente. Perché? È una buona base uscente perché esce bene, perché il legame carbonio-iodio di antilegame in questo orbitale è grosso. Tutto si rifà quindi alla natura degli orbitali. In questo contesto noi non abbiamo fatto quello che avrebbe fatto la chimica organica classica: avrebbe protetto l'alcol acetilenico, l'alcol, che ne so, con un tetraidropiranil derivato, con un derivato, un gruppo protettivo dell'alcol, poi avrebbe fatto l'anione all'acetilene e subito dopo ci avrebbe aggiunto l'elettrofilo lo ioduro, il bromuro di metile, quello che è, il solfato di metile che si usava una volta nell'industria per fare le metilazioni e ora non si usa più. Perché vedremo che ora si usa un'altra cosa, che, ma lo vedremo in un capitolo a parte. Tenete presente che nella green chemistry non si possono usare i gruppi protettivi, perché il gruppo protettivo prevede di fare due step in più. Primo step devo proteggere, secondo step devo deproteggere. Tutti e due gli step, per quanto vadano bene, mi costano fatica, tempo, denaro, pulizia delle apparecchiature, distillazione dei prodotti e soprattutto da un punto di vista di impatto sugli atomi di carbonio che sto utilizzando, non vanno bene. Sto utilizzando della roba che poi butto via. Non solo, ma la resa, ammetti che il processo sia del 90%, il primo, protezione, 90%, il secondo, 9 per 9 fa 81, hai già perso 20%, 20 punti sul 100% della resa. Non te lo puoi permettere. Gruppi protettivi e green chemistry, no, non vanno d'accordo, a meno che tu non ne possa fare a meno, e allora ti tocca farlo, se non sai farlo in altro modo. Questa è una classica reazione multicomponente. Ci mettiamo dentro l'idrogeno, il CO, l'acetilene e la base. La base che noi abbiamo potuto utilizzare, di solito qui si possono utilizzare delle basi anche abbastanza complicate, come il litio butile, per rompere il legame carbonio-idrogeno. Si può trovare anche il modo di fare delle reazioni in realtà più semplici, utilizzando solventi diversi, situazioni diverse, trasferimento di fase, ma sono cose che vedremo in altri capitoli. Non vi dico a cosa servono gli alcoli acetilenici, perché c'è una vastissima gamma di prodotti naturali che sono alcoli acetilenici e c'è una vastissima serie di reazioni di isomerizzazione in catalisi acida degli alcoli acetilenici che danno di tutto. Quindi sono composti base che servono ad aprire le finestre su altri composti. Siccome ai chimici organici green gli piacciono tantissimo le trasposizioni, perché sono reazioni pulite quando sono pulite e non ci sono sottoprodotti e soprattutto non ci sono pezzi che si staccano, atomi di carbonio che devi buttare via, sono reazioni che sono viste molto bene. Queste reazioni che noi facciamo oggi sono reazioni che per esempio possono essere utili per fare composti polifunzionali. Che ne so, l'acetilene, avete visto chetone o acetilene alcol, che servono a loro volta per fare sempre gli eterocicli. Gli eterocicli sono composti fondamentali in chimica organica, soprattutto non tanto perché mimano molti nuclei composti naturali che quindi hanno un grande valore da un punto di vista farmaceutico, ma perché per un chimico organico banale come me sono fonte di composti a più alto valore aggiunto. Cioè il chimico organico non è un chimico biologico, non vuole fare delle biomolecole, il chimico organico si diverte a fare delle molecole e basta, solo per il gusto di averle fatte. Per cui sovente gli eterocicli vengono utilizzati come prodotti di partenza per composti molto più complicati. Uno di questi composti, per esempio, è il tiofene, perché il tiofene dentro di sé ha la struttura di 4 atomi di carbonio collegati in un certo modo. Siccome il tiofene può essere ridotto, ve lo ricordo, con nichel-ranei è una miscela di idruri di nichel e di boro, sostanzialmente, composto utilizzato nell'industria, nei laboratori, senza grossi problemi. Avere un tiofene vuol dire avere una unità C4 attaccata, che sono i 4 atomi del carbonio del tiofene. Allora, l'analisi del tiofene è sicuramente, la sintesi del tiofene è una cosa importante. C'è una reazione storica che sostanzialmente è la reazione di Hans Dieker, si trova scritta con questo nome di solito, ed è una reazione multicomponente, che si può fare con una reazione multicomponente. di questi ce ne metto due perché per esempio. Quindi, cloruro dell'acido, una molecola di acetilene e idrogeno e palladio di Lindler. Palladio di Lindler. Chi è il palladio di Lindler? Palladio di Lindler è... Lindler è quel signore che si è inventato sto palladio. Su tutti i libri c'è scritto, io all'organica 1 lo dico, ma qui forse è meglio che lo ridica, c'è scritto palladio avvelenato. Palladio di Lindler è quel palladio che serve per prendere i tripli legami e ridurli ad alcheni, non permettendo che la reazione vada da alchene ad alcano. Ora voi dovete sapere che l'alchene è più reattivo dell'acetilene verso gli elettrofili, al contrario dei nucleofili. Anche questa cosa sul libro non c'è scritta, c'è scritta solo la prima cosa, che è vera. Quindi l'alchene reagisce più volentieri dell'alchino all'H+, e su questo non c'è nessun dubbio, ma l'alchino reagisce più volentieri dell'alchene all'OH-, in qualche modo. Ecco, questo va sottolineato. Il palladio, come c'è scritto sul libro, non è avvelenato. Il palladio è modificato, perché se fosse avvelenato, la sua velocità di reazione diminuirebbe. Diminuirebbe sull'acetilene, diminuirebbe sull'etilene, ma sempre l'etilene reagirebbe più volentieri dell'acetilene. Quello che succede è che nel palladio di Lindra ci si mettono dei leganti attorno al palladio che in qualche modo modificano la softness dell'orbitale vuoto, che credo che sia il D quadro, Y quadro, del palladio, che preferisce sommarsi al triplo legame carbonio-carbonio, perché è simile, e non al doppio legame carbonio-carbonio, per un problema di grandezza di orbitali. Quindi io ho softizzato il palladio ancora di più per rendere la velocità di reazione con l'alchino, l'interazione con l'alchino, più veloce. Quindi quando l'alchino avrà reagito e si sarà trasformato in alchene, il palladio di Lindra, l'alchene, non lo guarda, a meno che tu non insisti, ci metti tanto idrogeno e allora poverino anche l'alchene alla fine reagirà. Ma se te ci metti la quantità di idrogeno che serve solo a ridurre l'alchino ad alchene, la reazione ti si fermerà lì. Oh. Quindi hai fatto una differenziazione. Quello che succede, ovviamente, è che qui veramente c'è da rimettere la tetilamina. N-etile-etile-etile. Quello che si potrebbe pensare è, sulla base delle conoscenze che noi abbiamo, che c'è un signore che si chiama Rosenmund. Questo signore ha fatto una reazione. Ha preso i cloruri acidi con l'idrogeno e il palladio di Lindler e l'ha trasformato in aldeidi. Reazione di Rosenmund. Attenzione, perché ve lo dico? Ve lo dico perché questa noi non vogliamo che accada. Allora noi potremmo pensare che la tetilammina, per quanto poco possa fare, salifichi questo idrogeno acido dell'acetilene e aiuti l'acido cloridrico a essere portato via tra l'acetilene e il cloruro dell'acido, e questo lo faccia da una parte e dall'altra, in modo che si formi sostanzialmente quello che succede è che questo triplo legame con questi due gruppi elettron attrattori è diventato un triplo legame che potrebbe essere molto più soft perché tutto il sistema è coniugato. Quindi su questa molecola si potrebbe attaccare l'idrogeno e il palladio e fare CH2CH2CoR. Uno potrebbe pensare questo. Tutto sommato non sarebbe neanche una cattiva idea, probabilmente sui vecchi libri di chimica c'è scritto questo. In realtà, cerchiamo di ragionare con il nostro cervello. Arriva il palladio 0, o comunque un palladio modificato, ma sempre palladio zero perché è di Lindlar, la cosa che fa, appena vede il legame carbonio-cloro, sostanzialmente fa quello che fa il magnesio zero con reattivo di Grignard. E allora fa questo, RCO, palladio Cl, cioè si inserisce all'interno del legame carbonio-cloro attraverso un processo di single electron transfer. Io ora sto cercando di usare un linguaggio un po' complicato. Single electron transfer, ve lo ricordate? Rx. Questo era l'alogeno. Il magnesio era fatto così. Il magnesio fa entrare questo idrogeno, questo elettrone in questo orbitale. L'orbitale ospita l'elettrone, tutto si carica negativamente, al magnesio gli manca un elettrone, si carica positivamente. Questi due, questa coppia ionica si sbatte, si interagisce l'una con l'altra e si forma una coppia di radicali. La coppia di radicali si aggancia e si forma questo. Il magnesio è entrato tra il legame RX. Il palladio lo fa un milione di volte più velocemente. È chiaro, perché l'elettrone del palladio che si deve spostare si sposta più velocemente essendo il palladio più grosso. Cioè, gli elettroni del palladio sono negli orbitali D, negli orbitali S. A grande distanza dal nucleo, quindi possono essere sganciati più facilmente. Tanto è vero che per fare un reattivo di Grignard a temperatura ambiente devi scaldare, devi guardare, devi pregare, devi accendere le candele, devi aiutare, insomma, devi fare un sacco di cose. Il palladio a meno 20 gradi la reazione la fa in un microsecondo. E a te hai ottenuto questo. Questo signore può interagire a questo punto con l'idrogeno, perché noi abbiamo l'idrogeno, e fare la reazione di addizione. La reazione di addizione a che cosa ti porta? Ti porta a un palladio, idrogeno, cloro. Il palladio in questo istante è l'unica cosa che può fare. È la reazione di eliminazione riduttiva. Ha fatto l'addizione, fa l'eliminazione. E te ti trovi con un RCO palladio H. Questo è lo stesso intermedio di reazione che avrebbe dovuto dare per eliminazione riduttiva, perché vedi che ora l'idrogeno si può agganciare al CO, vedi che questa è la stessa reazione che c'era nella ossosintesi di prima. L'idrogeno idrurico e il CO sul metallo di transizione si agganciano. È la stessa reazione. Te devi fare lo stesso tipo di percorso, non ti posso raccontare una cosa qui e siccome mi fa comodo in un altro processo di reazione ti racconto il contrario. Deve tornare tutto. Allora, potrebbe fare questo. Ed è vero che potrebbe fare questo. Che è il passaggio più lento della reazione, era quello finale nella reazione di ossosintesi, sostanzialmente. Quindi, a questo punto, siccome io ho un palladio idruro, questo palladio idruro qui, che cosa fa con l'acetilene? È proprio qui, perché qui ci sono gli altri leganti che rendono questo palladio più soft e quindi in grado di agganciarsi al triplo legame. Quindi ci sarà l'addizione di questa roba al triplo legame, questo si aggancia, il palladio si aggancia qua, CH, doppio legame, CH, si aggancia qua. E qui ci sarà la reazione di eliminazione riduttiva, e qui si stacca il tutto e si forma CO, CH, doppio legame, CH2. No? Beh, che cosa succederà ora a questo punto? A questo punto, questo doppio legame che te vedi non dovrebbe essere aggredito dal palladio idruro, perché noi ci mettevamo il palladio di Lindlar proprio perché non reagisce col doppio legame. Sì, ma quel doppio legame lì non è un doppio legame di un alchene, è di un alchene coniugato con un ciclo più legame O, quindi si è solfizzato a morte. Voi tenete presente che tutti i nucleofili hard reagiscono qui, tutti i nucleofili soft reagiscono qui. Quindi il palladio idruro, un'altra volta, sotto forma di, scrivo così, H, palladio, COR, agisce in questo modo per formare, in un colpo solo, R, CO, CH2, CH2, COR. Ora sì che noi abbiamo ottenuto il prodotto finale, che prima avevamo banalmente visto un po' come gli anni 50, una reazione degli anni 50, ma vedi che ora c'è una spiegazione più consona a tutto, deve tornare tutto. E che te capisci bene che le velocità di reazione devono essere quelle, cioè il palladio non può fare altro. Istante per istante, perché la reattività delle molecole, dei pezzi messi in gioco, si modifica durante l'andare della reazione in modo da ottenere solo quel prodotto lì. Quando io negli anni 75-76 studiavo la chimica organica, queste cose sui libri non c'erano scritte, no? E ovviamente ti davano un'idea della reazione, l'acido cloridrico si toglie, la trietilammina fa questo, si aggancia qui, là, su e giù, eccetera. Però te non capivi perché non poteva succedere qualcos'altro. Invece così si vede che può succedere solamente questo. La reazione di Hans-Dieker è questa qui, perché questo composto, ora, se te lo prendi e lo tratti con solfuro di idrogeno, H2S, si chiude a tiofene in un colpo solo con delle rese eccezionali. È facile. Il solfuro di idrogeno reagisce con doppio legame CO e lo trasforma in un doppio legame CS, dando origine all'acqua. È un equilibrio, come voi sapete. Gli equilibri si spostano tutti verso la formazione dei prodotti più stabili. Chi è più stabile? Un doppio legame CS o un doppio legame CO? Un doppio legame CS perché? Perché lo zolfo è più grosso, l'orbitale CS è il doppio dell'orbitale CO e quindi gli elettroni hanno una velocità più bassa e quindi l'energia del sistema è più bassa. Cambiare, sostituire nelle reazioni di chimica organica un legame CO con un legame CS produce una stabilità delle molecole in gioco che voi manco vi immaginate. Facciamo un esempio. Voi, per farvi capire che cosa vuol dire i legami con lo zolfo, carbonio-zolfo, voi sapete che gli acetali sono molecole instabili, che per farle bisogna, insomma, fare una catalisi acida, ma togliere l'acqua e poi togliere l'H+ che è servito, perché sennò si torna indietro. Sapete che gli emiacetali manco se ne parla, perché gli emiacetali, a meno che non ci siano dei particolari effetti stereoelettronici, sono instabili. L'emiacetale con lo zolfo si distilla. Quindi vi rendete conto della differenza che c'è tra un emiacetale con lo zolfo e un emiacetale con l'emiacetale con lo zolfo, qui sto intendendo io, è questo. Cioè con un ossigeno e uno zolfo. Se poi ci metto due atomi di zolfo non ne parliamo nemmeno. Strastabile. Questo si distilla. Quindi tenete presente la differenza fondamentale che c'è tra un orbitale dello zolfo e un orbitale dell'ossigeno. La reazione di Hans-Dieker, che è vecchissima, per fare i tiofeni, è utilizzata molto utile, perché è una multi-component reaction, tutto accade in un colpo solo, ma lo puoi fare, lo puoi prevedere solo se sai i meccanismi di reazione, perché se non capisci questo, allora io cosa ti dico? Non è importante che te ti ricordi i meccanismi di reazione e reazione di Hans Dieter, ma che te fai mente locale al fatto che se vuoi progettare una reazione di questo tipo devi sapere come si è mosso l'ultimo pelo del buco del culo dell'elettrone, perché se no non la puoi fare. O meglio, cosa si fa? Noi si fa così, cioè no, io no, ma qua dentro qualcuno fino a qualche anno fa, quando qui dentro facevano le reazioni di chimica organica, faceva così. Ma proviamo a buttare dentro questa roba e vedere cosa succede, no? Che di solito su qualcosa succede sempre, e poi scrivi l'articolo. Volevamo fare questo, invece no, ci è venuta per caso. Ma si scrive volentieri, volevamo fare questo. Funziona così un po' dappertutto, in tutto il mondo, non solo così qui. Vi ricordo che fare del tiofene prevede quindi, con queste reazioni, che te puoi anche, per esempio, usare due alogenuri acilici differenti. E se sei abbastanza fortunato, ottieni un R1 zolfo R2, che poi tratterai con il nickel Raney e otterrai R1 CH2 quattro volte R2. Cioè hai in un solo colpo allungato, diciamo, interposto tra i due gruppi R, quattro atomi di carbonio, in un colpo solo. Il nickel Raney, ora non troverete mai da nessuna parte come cavolo funziona il nickel Raney. Il nickel Raney entra nel legame carbonio-zolfo come il magnesio entra nel legame carbonio-cloro. Il meccanismo è lo stesso. Quindi, mentre il nickel è adatto per fare queste cose, anche il palladio lo è, ma meno, con molto più lentamente. Il palladio è un po' da bosco e da riviera. Fa una reazione e ha un largo range di coordinate per cui tu puoi ottenere il prodotto di reazione. Il nickel è talmente veloce e talmente selettivo che se tu non scegli come finestra i parametri precisi, il nickel ti fa un casino della Madonna. Eppure nickel, palladio e platino sono grosso modo vicini nella tabella periodica degli elementi. Sembrano la stessa cosa, ma il nickel è più hard, il palladio è un po' meno e un po' di più, un po' più soft il palladio. E il platino è softissimo, tanto è vero che il platino poi lo usi come catalizzatore anche nell'acqua. Col nickel, il nickel zero nell'acqua non ci sta. Ovviamente questo prevede che tu, partendo da questo composto, possa ottenere tutti gli altri composti eterociclici a 5, perché il dichetone che tu hai utilizzato è un dichetone che, se lo tratti con H2S, ti darà quello, ma se lo tratti con ammoniaca ti dà il pirrolo. Quindi se lo fai ciclizzare togliendo acqua e scaldando, ti dà il furano. Quindi hai una vasta gamma di prodotti che puoi utilizzare per farci un sacco di cose. Ti ricordo che il furano è utile per fare le reazioni di Diels-Alder, faccio per dire. C'è una vasta gamma quindi di eterocicli utilizzati come building block in letteratura per fare cose più importanti. E non sono gli eterocicli i gruppi finali, il target finale che ti vuoi ottenere, ma l'eterociclo è il gruppo di partenza. Quindi ovviamente, a questo punto, se te vuoi fare la reazione di Hans Dieter in modo multicomponente, alla fine finirai per metterci il solfuro di idrogeno all'interno della reazione. E siccome ci devi mettere tutto insieme, sarai abbastanza sicuro, dovrai essere abbastanza, troverai le condizioni di reazione per cui il solfuro di idrogeno non ti vada a inibire quella che è la capacità catalitica del palladio. Solitamente questo non accade. perché il palladio di Lindelar è un palladio che è avvelenato, come dicono erroneamente i libri, io dico modificato, con molecole che hanno atomi di zolfo con dei doppietti di elettroni che vengono donati al palladio. Quindi sicuramente l'idrogeno solforato granché non gli farà. Però noi, facendo queste reazioni, dobbiamo vedere che ci stiamo immaginando anche un po' come funzionano queste cose, perché è la nostra capacità creativa che deve essere sostanzialmente tirata fuori. Noi abbiamo una serie di nozioni di chimica organica 1 e di chimica organica 2. Le dobbiamo tirare fuori, spremere fino in fondo per riuscire a inventarci processi che sulla carta si possono scrivere ma che in laboratorio devono funzionare. Questo prevede una conoscenza in fondo dei meccanismi di reazione elevatissima, ma quindi una grande razionalità da parte del chimico. Il chimico industriale non si può più permettere di dire ma buttiamo dentro questa roba e vediamo cosa succede. Sì, lo puoi fare in laboratorio su scala piccola, ma perdi tempo. Perdi tempo perché fai come facevano i chimici degli anni 60. Proviamo a fare così, proviamo a fare così, proviamo a fare così, proviamo a fare così. Hai fatto 7 prove e te ne viene mezza. Prova a pensarci di più prima a che cosa potrebbe non funzionare e non la fare nemmeno quella reazione lì. Fanne 2, 3 e magari ti vengono gli stessi risultati che te facevi con 7 prove. Ma questo cosa vuol dire? Risparmiare un sacco di soldi. E siccome la Green Chemistry, te gli devi dire al tuo padrone dell'industria, guarda che se facciamo così sicuramente bisognerà mettere a punto questa reazione, ma non mi ci vorrà tanto tempo, magari lo convinci, perché se te gli dici, ma bisogna provare, chissà, ci vorranno 3, 4 mesi, 5 mesi, no, troppi soldi. Troppi soldi. Il padrone non vuole mai spendere, anche se dopo pensa che ci può guadagnare, però lo vede questo guadagno talmente lontano, cioè fra 3 anni, lui può guadagnare subito. La stagione la vuol fare subito, vuole portare a casa i soldi subito, non vuole aspettare 3 anni. Non c'ha questa mentalità. E sono le ditte che poi falliscono, ovviamente, no? Perché chi va avanti sono quelli che fanno l'innovazione. Questo tenetelo presente. Altro... ipotesi di lavoro. Noi sappiamo fare la reazione di Friedel-Crafts. E la reazione di Friedel-Crafts sapete perfettamente che si fa. Si prende il benzene, ci si mette dentro un elettrofilo, ci si mette un catalizzatore, che è un acido di Lewis, e quello che viene fuori, bene o male, dovrebbe essere l'elettrofilo attaccato al benzene. Più o meno. È così. Allora, quando io devo metterci due cose attaccate sul benzene, faccio due passaggi. Ci metto prima la prima e poi con opportune regole so che il primo gruppo che ho introdotto sull'anello aromatico mi indicherà quale sarà la ipotetica posizione del secondo gruppo. Non lo posso fare tutto insieme. Una reazione di Friedel-Crafts di due passaggi, la voglio semplificare, fatta in un colpo solo. Facciamo una ipotesi di lavoro. Inventiamoci una reazione di Friedel-Crafts, benzene, più un alogenuro acilico, CH3, CO, Cl, più lo ioduro di metile, più un acido di Lewis. Cioè, basta scegliere, nel senso, il primo che entra deve essere quello, cioè quello che vuole fare il primo deve reagire più velocemente, bien sûr, no? Te pare? Bene. E qui ci mettiamo un acido di Lewis, acido di Lewis. Benissimo. Facciamo finta di usare la LCL3. Classico acido di Lewis, su tutti i libri c'è scritto, eccetera, eccetera. Benissimo. Noi sappiamo una cosa fondamentale, che l'acidazione di Friedel-Crafts prevede che di acido di Lewis ce ne debba mettere una quantità stechiometrica più una quantità catalitica. Quindi se io voglio fare un'acilazione e un'alchilazione insieme, di acido di Lewis ce ne devo mettere tanto, se no sono finito, non funzionerà mai, non succede niente, non parte nemmeno la reazione. Si forma cioè la prima molecola di prodotto e poi fine, finisce lì. Perché l'acido di Lewis si complessa al carbonio carbonilico del metilfenilchetone e da lì non la stacchi più. Quindi non andrà a fare poi i cicli catalitici che invece servono per mandare avanti la reazione. Innanzitutto ci dobbiamo chiedere chi è che reagirà per primo con il benzene. Perché faccio questo tipo di reazione? Perché io dentro di me ho un po' la sadica idea di dirvi una cosa a quale voi non avete mai pensato. In termini hard e soft, il benzene è strasoft. Perché sono tutti atomi di carbonio non polarizzati. È una molecola che ha un piano di simmetria, ha 12 assi, 12 piani di simmetria, 12 assi di rotazione C2, un asse di rotazione C6, cioè c'ha un sacco di elementi di simmetria. Questo vuol dire che io devo scegliere la cosa più soft che reagisca con il benzene. Quindi mi sto facendo un'idea della reazione di Friedel-Crafft completamente nuova. Faccio un salto indietro per farvi capire dove sto arrivando. Quando io ho fatto una volta una domanda a uno studente a lezione, che è sbiancato, il problema è che non è sbiancato solo lui, è sbiancata anche la commissione che era con me. E io ho fatto una domanda semplice. Nella reazione di nitrazione c'hai il benzene, c'hai l'acido nitrico e c'hai l'acido solforico. L'acido solforico si comporta da acido solforico, l'acido nitrico si comporterà da base, si forma lo ione nitronio, attacca il benzene e la reazione procede con la formazione del nitrobenzene. Ma te ci metti l'acido solforico e ce ne metti anche tanto. Perché ce ne metti tanto? Ce ne metti tanto perché dalla reazione si forma acqua e l'acqua diminuisce l'acidità dell'acido nitrico e quindi mano a mano che vai avanti la nitrazione, come diceva lui prima, s'ammoscia, diventa più lenta e poi si ferma. Allora devi trovare qualcuno che ti tolga l'acqua dall'ambiente di reazione, e questo è l'acido solforico, perché si condensa, si aggancia, si solvata. L'acido solforico, con forte energia, butta fuori calore, ma la molecola di acqua che è attaccata all'acido solforico non si stacca più. Quindi è come se tu ci avessi messo dentro dei setacci molecolari per prendere l'acqua. È in questa situazione. Ma perché non si ottiene niente di solfonazione? Di acido solforico ce n'hai tantissimo dentro. Un po' di acido benzensolforico, ma lo vuoi, fa ottenere. Niente, zero, non c'è scritto su nessun libro. Eppure c'è l'acido nitrico e c'è l'acido solforico. Cosa vuol dire questo? Che l'NO2 più è più competitivo dell'SO3. Che cosa vuol dire questo? Che l'NO2 più è più soft dell'SO3. È più soft, perché se no questa cosa non succederebbe. Quindi più una cosa è soft, più agisce sul benzene. Quindi, che cos'è un elettrofilo forte? Un elettrofilo forte è un elettrofilo soft. Pensa, no? Uno pensa soft e debole, no? Soft e forte, come elettrofilo. Allora, in questo contesto, uno si può divertire a capire perché uno dei due è più soft dell'altro. La cosa non è banalissima, Non è banalissima. Innanzitutto, lo zolfo sembrerebbe avere anche degli orbitali più grossi dell'azoto, ci sono SO3, tre ossigeni, contro l'NO2 che ce n'ha solamente due, quindi sostanzialmente ci sono molti più elementi elettronegativi che tengono sostanzialmente una carica positiva e che quindi dovrebbero sottilizzare la carica positiva. Però noi l'SO3 lo scriviamo sempre in questo modo, lo zolfo è fatto così, no? Noi lo scriviamo così. Bene, con due legami datili, l'ossigeno zolfo. In realtà questa situazione prevede che ci sia più delta meno delta, meno delta più delta. Quindi guarda che questo zolfo qua c'ha una carica positiva forte. Quindi è una carica positiva forte. vuol dire hard, non tanto hard perché c'è 3 ossigeni, lo zolfo, gli orbitali sono grossi e così via. Quindi questa solfonazione rispetto alla nitrazione, cioè all'ione di nitrogeno, più se voi guardate la posizione degli orbitali, scoprite che questa è una situazione molto più hard di questa. Sono due situazioni soft, ma questa è più hard e questa è più soft, quindi pum, la nitrazione ha una velocità sull'anello benzenico superiore alla solfonazione. Se tu fai una solfonazione ed un'alchilazione, cosa succede? Che la solfonazione attacca subito e l'alchilazione arriva dopo. Allora vedi, chi sono gli elettrofili soft? Gli elettrofili soft sono gli elettrofili forti, che sono però caratterizzati dall'essere gruppi disattivanti alla sostituzione elettrofila. Perché NO2 e SO3H chiaramente sono disattivanti. È evidente che si attaccherà più facilmente un CH3+, o un terziarbutile più sulla nella romana. Un terziarbutile più si attaccherà più velocemente del CH3+, perché il terziarbutile è soft come carbocatione, perché è stabilizzato. Ma come? C'è un CH3+, cioè un gruppo con grande ingombrosterico, no? Che ti abbassa un po' più la velocità di reazione. Ma pensa che l'ingombrosterico con l'effetto elettronico non conta quasi niente, cioè sono gli elettroni che contano. E sono come sono fatti gli orbitali che conta la cosa. Allora, tutto questo discorso ti fa vedere la reazione di Friedel-Crafts in un'ottica nuova, completamente nuova. E allora io, se io ho un CH3CO più e un metile più, che per formarsi ci vuole Gesù per fare rima, perché il metile più è un carbocatione primario e non si formerà mai. Quello che succede è che qui io ho delle formule limiti di risonanza. Io lo so che c'è lo ione carbo ossonio tutte le volte che faccio un'acilazione. Quindi la prima cosa che succede è che lo ione carbossonio fa l'acilazione e io mi faccio la mia acilazione. Finito il CO, finita l'acilazione, io ho un benzene con un gruppo disattivante. Con calma arriverà il metile che si aggancerà in posizione meta. Come posso modulare, se non ce la faccio, queste due velocità rendendole molto differenti? Uno, usando un opportuno acido di Lewis. Due, utilizzando alogenuri differenti nel cloruro acido e nel cloruro alchilico, nell'alogenuro alchilico. Se io voglio aumentare l'hardness e fare in modo che si differenzi ancora di più la velocità di reazione per l'entrata del gruppo metile, io invece di usare lo iodio che softizzerà il metile, utilizzo il cloro. Ovviamente non posso usare il fluoro per ovvie ragioni. Utilizzerò il bromo, in questo caso sarà meglio perché nell'industria il cloruro di metile è gassoso, il bromuro di metile, ma posso usare qualcosa che si comporti da pseudoalogenuro, e che sia facilmente utilizzabile in qualche modo, che mimi il bromuro o lo ioduro di metile, ma che lo distanzi ancora dalla hardness dell'alogenuro acilico, RCOX. Allora posso decidere questo qui quale sarà il migliore. E posso decidere l'acido di Lewis. L'acido di Lewis è un metallo con dei gruppi elettronattrattori. Allora, questo X deve essere uguale a questo. E il metallo deve essere grande come X. Se X è piccolo, il metallo deve essere piccolo. Se X è grande, il metallo deve essere grande. Quindi un conto è usare il BF3 eterato, un conto è usare la LCL3, un conto è usare lo ZNCL2, un conto è usare lo ioduro di rame. Quindi hai 3 parametri che puoi, su cui puoi lavorare per fare prima l'acilazione e poi l'alchilazione. Questo concetto qui ti permette di progettare delle reazioni di Friedel e Kraft come te pare. Ovviamente puoi cominciare a pensare che puoi fare anche due alchilazioni differenti, facendo entrare un prodotto prima e l'altro prodotto dopo, mettendo insieme i due alogenuri alchilici, differenziandoli come uno sarà un terziario, fai conto, e uno sarà un primario, e poi i due alogenuri che sono attaccati al primario e al terziario saranno differenti, e poi l'acido di Lewis sarà fatto in modo che si agganci subito al terziario, faccio per me, perché il primario è per forza di cose di lui. Però il trend potrebbe essere che le velocità di reazione non siano sufficientemente differenziate, no? Allora te le differenzi in questo modo. Pensa a te, chi l'avrebbe mai visto, detto che nella reazione di Friedel e Kraft si poteva comprendere che chi reagisce meglio è l'elettrofilo più forte, e l'elettrofilo più forte è sempre un elettrofilo soft. Quindi la carica positiva è su un orbitale grande. Fate mente locale a tutte le reazioni che conoscete di questo tipo e scoprirete, ma guarda che strano, è vero. Le cose che avvengono meglio sono quelle che poi daranno sull'anello aromatico un gruppo elettron attrattore, cioè disattivante alla sostituzione elettrofila, per motivi di orbitali. E qui, già che ci sono, ho la necessità di darvi un'altra informazione sulla reazione di Friedel e Kraft. Perché nelle reazioni, io è chiaro che un po' ci marcio su questa cosa, cioè uso anche questo corso, come vi dicevo prima, per farvi vedere delle cose che non avete visto da nessun'altra parte, che non vedrete mai, perché sui libri non ci sono scritti, e che sono cose basilari, importanti, che dovrebbero sapere tutti, non ti dico alle elementari, ma insomma uno che esce da un dipartimento di chimica organica come quello di Pisa, che ha 668 anni, che non è quello di Oxford, che ce n'ha 140. Noi ce ne abbiamo 668, no? Bisognerebbe che qui fosse il tempio della scienza. Invece, ahimè, mi sembra che non sia così. E questo vi deve far capire come voi, quando uscite dalla laurea, credete insomma di sapere qualcosetta. E mano a mano che andate avanti avete delle crisi di identità, perché vi accorgete che una banalità non la sapete. E quella banalità un giorno vi chiedete, o qualcuno vi chiede, ma perché questo non è fatto così? E tu dici, cazzo, non ci ho mai pensato. No? Allora, una cosa, un esempio, ne abbiamo fatti tanti e ne faremo altri, è la reazione di Friedel e Kraft. La reazione di Friedel e Kraft non si sa perché non c'è scritto da nessuna parte, ma ora te lo dico io, l'acilazione non è come l'alchilazione, perché l'acilazione sembra essere irreversibile e l'alchilazione è reversibile. E perché la solfonazione è reversibile ma la nitrazione no? Non c'è scritto da nessuna parte perché non è reversibile. C'è scritto non è reversibile, ma non c'è scritto perché. Ci sono due palle sull'effetto col deuterio, l'effetto isotopico primario, che si vede che la reazione non è reversibile, e hai ragione, non è reversibile la solfonazione, l'acilazione. Ma perché? Ecco, il perché non c'è scritto, il perché te lo dico io, perché ovviamente se ti vai in lavori, in letteratura, e scopri tutto, c'è scritto tutto, quindi non ti invento niente, ma dovrebbe essere una cosa che è stampata nei libri. Guarda, la reazione è fatta così. C'hai il benzene, c'hai un elettrofilo, c'hai un equilibrio, e la storia è dell'equilibrio, per quello ti dico puoi metterci delle cose dentro per fare le cose che vuoi te. Quello che succede è che si forma l'intermedio detto di Wieland, scritto così, che successivamente, così o non di equilibrio, dipende se la reazione è reversibile o no, ti darà l'elettrofilo più H+. Ecco, l'idea della reversibilità è nascosta qui dentro. Dentro, come è fatto questo signore qui? prendiamo una lente di ingrandimento e andiamo a vedere come è fatto questo signore. Questo signore è fatto così. Qui c'è un idrogeno che viene di qua e qui c'è l'orbitale con la carica positiva. È una delle tre formule limiti di risonanza. Oh, ma non è planare. E siccome non è planare, posso scrivere anche il suo conformero, perché sta in una conformazione più qui elettrofilo H. I due conformeri dell'intermedio di Wieland non planare si riconoscono, perché in un caso l'elettrofilo è assiale, nell'altro caso l'elettrofilo che sta per entrare è equatoriale. Beh, come faccio a dire che non è planare? È semplice. Quando te hai preso una molecola fatta così, con tutti metil, cioè l'esametilbenzene, e ci metti un metile più, X meno, con l'opportuno acido di Lewis, in realtà come acido di Lewis si usa BF4 meno, si ottiene un composto stabile sotto forma di sale, che è questo. Un po' gli NMRisti questo la sanno, più il controione che sarà X- e l'acido di Lewis che io ho scelto, che di solito è il BF3. Perché? Perché se uso per esempio il fluoruro di metile e il BF3 ottengo questo signore, che è l'eptametilbenzenonio tetrafluoborato, e i tetrafluoborati sono sovente solubili nel CHCl3, o meglio nel CdCl3, che ti serve per fare lo spettro di risonanza magnetica nucleare. Quando te hai fatto lo spettro di questo signore, ti aspetti i segnali del CH3. Quanti tipi di CH3 credi di avere? Uno pensa che potrebbe avere 1, 2, 3, 4, 5 tipi di CH3, 5 CH3 uguali e 2 CH3 diversi. Invece no. Invece no. Questi sono planari 1, 2, 3, 4 e 5, quindi un totale di 15 idrogeni che cascano slargati, perché questi magari sono un pochino più vicini a questi qui, così è planare. I due metili stanno sopra e sotto il piano. Tutto ciò che è sul piano, grosso modo, paramagneticamente parlando, è simile. Questi due sopra e sotto, siccome il piano è identico, sono uguali, su questo non c'è dubbio. In realtà le cose non stanno così. In realtà le cose stanno che ce ne sono cinque fatti in un certo modo, ma uno sta sopra e l'altro sta sotto il piano, perché in realtà le cose sono fatte così. Cioè uno ha un intorno magnetico assiale e l'altro ha un intorno magnetico equatoriale. In quel contesto si è visto che l'intermedio di Wieland non è planare. Bene. Abbiamo visto che non è planare. Non è planare, non c'è niente da fare. Ma perché sul libro non c'è scritto? Che è una cosa importante. Allora, voi dovete capire una cosa fondamentale. Che questo orbitale qui è pieno di elettroni. Questo orbitale qui è pieno di elettroni. Quando questi elettroni vengono rimessi qua dentro, quello che succede è che questo si trasforma ovviamente in benzene, così, più H+. Ma quando è quest'altro a reagire, è questo che mette gli orbitali qui dentro, gli elettroni qui dentro, e quello che si forma è questo più e più. Per il semplice fatto che la geometria degli orbitali è tale che se le reazioni devono avvenire perché gli orbitali pieni e gli orbitali vuoti fanno qualcosa tra di loro, perché se non si sovrappongono le funzioni d'onda e nello spazio non si sovrappongono gli orbitali, questi non interagiscono tra di loro. Allora questo agisce così, perché quindi è solamente il gruppo ad asta di bandiera che verrà espulso. Orbene, se questo è un equilibrio, la reazione è reversibile. Se una delle due forme è estremamente più stabile dell'altra, c'è solamente quella che darà i prodotti di reazione e la reazione non sarà reversibile. Allora, guardiamo che cosa succede con la alchilazione. L'alchilazione è una reazione reversibile. Sostanzialmente, quindi, il CH3 si può mettere sia così che così, perché è piccolino, è ad asta di bandiera e anche assiale e equatoriale insieme. Quindi, delle due reazioni, qual è quella più facile? L'equilibrio da che parte sarà spostato? Sarà sicuramente spostato verso questa situazione, perché il CH3 è più grosso, quindi preferisce stare fuori, che non qui. Perché qui, tra parentesi, poi se ci fossero altre situazioni, queste darebbero fastidio anche. Ale, ma anche se non ci sono, questo non ci sta tanto volentieri, quindi questo è più stabile, è più probabile che esista. In questo contesto, il carbocatione, in questo contesto, non solo per effetto sterico, ma per effetto elettronico, cioè l'orbitale carbonio-idrogeno, per effetto anomerico, effetto studiato nel 1952 da Lemieux, è lo stesso effetto che abbiamo visto sugli acetali e sugli emiacetali qualche giorno fa, l'orbitale carbonio-idrogeno pieno si sovrappone meglio a questo orbitale qui. Sono simili. È la situazione in cui i carbocationi vengono stabilizzati, no? È un effetto iperconiugativo. Bene. Meno bene il legame carbonio-carbonio, che però ancora ha una certa affinità con questo orbitale. Quindi, se io faccio la reazione di alchilazione normalmente, ecco che si forma questo composto darà origine a questo equilibrio, l'equilibrio si sposta di qua, il protone se ne va e io ottengo il metilbenzene. Però, sotto certe condizioni, se io riesco a spostare l'equilibrio, scaldo, quindi prendo questo, lo tratto con l'H+, si forma questo intermedio scaldato va avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, si forma l'E+, e io l'E+, trovo il modo di buttarlo fuori, togliendolo dall'equilibrio, l'equilibrio mi si sposta di qua, perché c'è un equilibrio qua. Questa è la vera natura della reversibilità. Per esempio, come si fa? Col terziar butile. Ma perché si fa bene col terziar butile? Perché il terziar butile, quando si è staccato il carbocatione terziar butilico, esso si trasforma in isobutene. L'isobutene è un gas, si toglie dalle palle e si è riuscito a riportare il benzene terziar butile, terziar butil benzene, a benzene senza nessun sostituente. Quindi il gruppo terziar butilico viene utilizzato come gruppo protettivo dell'anello aromatico, perché ce lo metti bene. Cloro di terziar butile è CL3. E poi, in opportune condizioni, scaldi e si stacca. E il terziar butile, che è un gruppo orientante orto-para, orienta solamente in par, perché in posizione orto a terziar butile per effetto sterico non c'entra nulla. Quindi, ma tutto ciò nasce dal fatto che l'alchilazione è reversibile. E quale sarà l'alchilazione più reversibile? Quella del terziar butile, perché rispetto al metile. Anche con il metile, però, non crediate che non sia così. Bene, la solfonazione. Bene, la solfonazione è reversibile solo e solamente perché esiste una probabilità di portare questa struttura qui in equilibrio. Il gruppo, normalmente, benzene, acido solforico, il gruppo solforico si mette qui equatoriale, non assiale, perché è gigantesco il gruppo solfonico, eh? È grossissimo il gruppo solfonico, e quindi ad andarsene c'è il protone. Ma quando io faccio la reazione inversa e trovo il sistema di portare via l'acido solfonico, l'acido benzensolfonico, l'acido sì, il gruppo H2SO4 sostanzialmente, che si stacca, lo posso fare solo e solamente perché ho la probabilità che questo signore si interconverta in quest'altro conforme. Questo perché l'orbitale carbonio-zolfo ha una compatibilità con questo orbitale che tiene la carica positiva e si sovrappongono bene, perché se no non succederà mai. Quindi è la natura dell'orbitale che fa, che ti rende la reazione reversibile. Torneremo su questo argomento quando faremo le reazioni in trasferimento di fase, quindi siamo in ambiente basico, e vedremo come è possibile sostituire un gruppo sul benzene, dove c'è un idrogruppo che attiva la sostituzione nucleofila, con lo stesso trucco. Allora, come si fa a togliere, voi che siete industriali ve lo dico, bisogna togliere l'acido solforico, bisogna spostare l'equilibrio. Per spostare l'equilibrio si prende l'acido benzensolforico e lo si fa passare attraverso una corrente di aria, vapore bollente. Il vapore bollente prende l'SO3 che si sta staccando, la trasforma in acido solforico e la porta via. Cioè è una roba meccanica, tecnicamente, funziona in questo modo. Ci soffi sopra del vapore bollente, tecnicamente, perché poi l'acido solforico si diluisce e non torna più indietro, no? Non torna più indietro. Beh, la acilazione è irreversibile, perché un gruppo COR qui si pone in modo tale in questa molecola che la sovrapposizione dell'orbitale carbonio-carbonio, del gruppo carbonilico, con questo orbitale è praticamente nulla. Ma si può fare un'acilazione irreversibile? Già che ci siamo. Guardate che non se ne è accorto nessuno, ma le acilazioni possono essere reversibilizzate. Non è vero che non se ne è accorto nessuno. C'è un articolo, una letters su Chemistry and Industry del 1950. Questa ve la dico perché è una cosa industriale e a voi vi serve. Industriale, sono processi tutti industriali. Allora, guarda questo, questi prodotti qua che ti sto scrivendo ora sono prodotti importanti perché ci si fanno i coloranti all'antrachinone. I coloranti all'antrachinone, dei vari coloranti, sono un gruppo di coloranti molto importanti, perché questi sono prodotti che, a seconda dei gruppi che ci sono messi qua sopra, sono composti colorati, rossi, gialli, sostanzialmente questi colori qui, e si riesce a utilizzare questi coloranti perché sono altino, cioè sono coloranti che possono essere solubilizzati. Qual è il problema dei coloranti? Anche queste cose qui, no? Sono delle cose semplici che un chimico deve sapere. Il colorante di solito è una molecola bestiale, gigantesca, che non si scioglie in acqua. Il colore lo devo fare in acqua. Allora, già il maglione non si scioglie nell'acqua. Se ci metto anche il colorante che non si scioglie nell'acqua, è col cavolo che io riesco a colorare. Almeno fammi sciogliere il colorante. E allora, per sciogliere il colorante, io faccio reagire questi composti, opportunamente con bisolfito di sodio, si agganceranno con delle opportune reazioni che non vi sto a dire, gruppi S3H, e il gruppo S3H rende solubile quella specie di bestia lì nell'acqua. Ecco perché nei coloranti azoici spesso trovate gruppi S3H sparsi sulle molecole benzeniche. Servono solo a dare solubilità al colorante nell'acqua. Bene, questi sono quindi composti molto importanti. Quando io prendo questo signore qui e lo faccio reagire in alcol, ROH, in H+, succede qualcosa di strano. Questo si stacca e si attacca qui sotto. E quindi, alla fine, io ottengo una strana isomerizzazione, perché questo si stacca e si attacca qui sotto, quindi io ottengo vedete, gas cromatograficamente parlando, sono partito da due R che erano così e ottengo gli R da un'altra parte. Qua, questi R sono gruppi non alchilici, sono anche altre cose, quindi non posso invocare il fatto che il gruppo alchilico durante il trattamento con l'acido si sia staccato perché la reazione di alchilazione è reversibile, perché quello può essere anche MSO3H. Ma l'acidazione non è reversibile, come mai? L'unico esempio in tutta la storia dell'universo di acidazione reversibile. Cioè, su quell'articoletto lì, che saranno 40 righe, c'è scritta questa cosa, e questo è un processo industriale. Guardate che cosa succede. Succede una cosa che voi potete utilizzare di nascosto perché non la sa nessuno. E in parte nell'articolo si dice, quello che succede è che l'H+, in ambiente acido, produce... la formazione di questo intermedio di reazione. Ma sì, un intermedio di reazione che però sostanzialmente interagisce questo carbocatione con la parte di sopra e alla fine in acqua acida o in etanolo te ti trovi ad avere un composto fatto così. Cioè praticamente c'è questo intermedio che è un emiacetale di una certa stabilità, rigido, ciclico, così. Allora a questo punto attacca l'H+ qui, e l'H+ attacca qui perché la carica positiva deve andare qui, in meta di tutte le cose che può fare, in posizione geminale, quindi ci metti H, ci metti R, ci metti più O. E ora accade il miracolo. Il miracolo è questo. Questo fa così. E quello che si sta staccando è l'acetato. Guarda che cosa si fa. Poi. È l'acetale. Perché l'acetale si stacca? L'acetale si stacca in primis perché è un carbocatione carbossonio stabilissimo. Questo è un ione carbossonio acetalico benzilico. Quindi una volta che si è staccato, prima che si riattacca ci vuole una vita. E chiaramente per ingombro sterico, girando attorno a questo legame, siccome la reazione è di equilibrio, quando si attacca questa cosa qui si va ad attaccare qua. Allora vuoi vedere che se te c'hai un acile attaccato a un anello aromatico lo puoi staccare, lo devi trasformare in acetato e devi fare in modo che il gruppo esca come C+. Allora sì che ce la fai. Vi potrebbe servire nella realtà. Sì. Potrebbe ripartire da come, quali sono i meccanismi dell'emiacetale? Dunque, noi abbiamo l'emiacetale, che l'ho scritto da qualche parte. È qua. Allora, l'H+, cioè pensa che questo è un anello aromatico con l'H+. L'H+ attacca e l'H+, quando attacca, una delle cose che può fare, che fa volentieri, è cercare di mettere come posizione di attacco se stesso, in modo tale che la carica positiva vada sul carbonio che è, c'è il gruppo R attaccato. Questo perché si stabilizza. Allora, questa è una reazione ovviamente reversibile, ma In questo contesto, invece di staccarsi un'altra volta la KPU, si stacca quest'altro coso, questo qui, che è il sostituente che stava sull'anello aromatico. Perché questo si stacchi, se voi fate il modello tridimensionale, scoprite che questo è dritto, è ad asta di bandiera, e lo tiene ad asta di bandiera anche questa struttura qui, in particolare endossido, cioè un ossido interno, che costringe questa cosa a stare ad asta di bandiera nel modello che abbiamo visto prima. Quindi obbliga gli effetti stereoelettronici che abbiamo visto prima a bloccare questa molecola in modo tale che l'unico gruppo che può uscire è l'acetale. Una volta che l'acetale esce bene, e ovviamente si mette ad asta di bandiera, perché i suoi orbitali sono fatti in modo tale, e si vede, in quanto il gruppo uscente ha una carica positiva sul carbonio acetalico benzilico, che è estremamente stabile. La vecchia chimica organica ti dice il gruppo terziario butilico esce bene perché il gruppo terziario butilico come carbocatione è stabilizzato, quindi esce bene da un punto di vista di equilibrio, perché è un acido, ma è un acido debole perché l'orbitale che tiene la carica positiva è stabilizzato da tre gruppi CH3 che per effetto iperconiugativo stabilizzano il carbocatione. Qui addirittura c'hai un ossigeno e un ossigeno e il benzene che con i loro doppietti di elettroni ti puoi scrivere un milione di formule limiti di risonanza. Questo è l'aspetto fondamentale. Una volta che ti hai capito questo, però, puoi fare quello che non ha mai fatto nessuno, cioè puoi rendere l'acilazione reversibile. Incredibile. Ma questo perché sai come fare, perché se no, se non conosci il meccanismo di reazione, non lo fai, lo puoi progettare questa cosa qui, perché ha un senso, ha un senso. Dietro questo concetto qui c'è un altro concetto fondamentale della chimica organica 2, che è il perché il fluoro sul nitrobenzene esce meglio dello iodio. Cioè si ha una inversione della scala di uscita degli alogeni rispetto a quella che è la sostituzione nucleofila lifatica. Ma di questo ne parleremo quando faremo quelle reazioni. Però al limite, almeno così, lo sapete. Perché se uno vuole andare a vedere, ci sta che sul Marce questa cosa c'è scritta. Il Marce però è un libro importante che una volta si usava come il pane qui, però ora chiaramente non si usa più. Troppo difficile. Quindi il mio punto di vista, che vi volevo sottolineare ora, è alcune delle reazioni che abbiamo imparato, anche in organica 1 e organica 2, non ce ne eravamo accorti, ma erano reazioni multicomponenti. Alcune altre reazioni noi le possiamo in qualche modo rendere multicomponente se sappiamo come funziona questo principio della multicomponenza della reazione. Quindi vi spingo in questo contesto a inventarvele queste cose, a scriverle sul foglio e a verificare se ci sono tutti quei parametri che vi possono permettere di fare una reazione di questo tipo, perché il risparmio è gigantesco, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Da un punto di vista economico non ne parliamo, perché invece di fare tre reazioni fai una sola. Sai quanti processi di purificazione ti risparmi? Ne fai uno solo sul prodotto finale. E per chi è stato in laboratorio sa che purificare il prodotto che ti hai ottenuto con la resa del 90% ma non riesci a purificarlo di quel 10%, cioè c'hai gli incubi durante la notte. E qui finiamo questo tipo di capitolo e iniziamo un altro capitolo, almeno a vederlo grossolanamente, cioè a impostarlo, ed è il capitolo che dice: usiamo come prodotti di partenza non più prodotti che vengono dal petrolio, quindi distillazione del petrolio, forming, platforming, reforming, tutte quelle cose lì. Utilizziamo prodotti sostenibili, ecocompatibili, come i prodotti naturali, i prodotti che vengono dalla carne da zucchero, i prodotti che vengono dal macero della carta, i prodotti che vengono da cose che noi abbiamo seminato, che crescono, che danno i frutti, dai quali noi trarremo questi prodotti e che poi in un secondo tempo risemineremo per ottenere ancora un altro raccolto da cui otterremo ancora prodotti. Quindi non è come il petrolio che si brucia e finisce, o meglio, bisognerà aspettare 1 miliardo di crononi di anni prima che si riformi, ma noi non ci saremo più. E invece noi abbiamo bisogno di queste risorse che sono sostanzialmente definite rinnovabili. Bene. Tutta questa chimica sostanzialmente prende il via, io dico sempre dalla canna da zucchero, dalla barbabietola, ma perché uno pensa che dalla barbabietola ci si fa lo zucchero e lo zucchero si mangia. In realtà lo zucchero è una molecola, il glucosio, il fruttosio, l'ossilosio sono molecole di partenza per fare un sacco di cose. In particolare, se te prendi una molecola fatta così, che è l'ossilosio, il lixosio sarebbe uguale. Il lixosio è un anomero dell'ossilosio, è un epimero, scusate, dell'ossilosio, cioè è uno zucchero identico, è un pentoso, un aldo pentoso. I due, xilosio e lixosio, si differenziano per la stereochimica di un atomo di carbonio, quello vicino al gruppo carbonilico. Uno dei due è R, l'altro è S, tanto per intendersi, partendo dalla digliceraldeide sempre. Quindi no, non è, scusate, ho sbagliato, non è l'OH vicino, no, ho detto giusto, perché l'ho scritta ora in questo modo, pronta per essere, diciamo, reagita, però l'atomo di carbonio 1 è questo, quindi l'atomo di cui la stereochimica è diversa, di cui stiamo parlando, è questo qui, ecco, che è quello vicino al gruppo carbonilico. Quindi un aldo pentoso. Questo aldo pentoso, in opportune condizioni di reazione, posso togliere acqua attraverso una reazione di questo tipo, che schematizzo in questo modo. Poi vediamo perché accade. Si ottiene questo intermedio di reazione. Questo intermedio di reazione, opportunamente disidratato, dà origine al furfurale, aldeide furoica, furan 2 carbaldeide, reazione industriale, costo zero, devi solo scaldare ed eliminare acqua, e l'ossilosio lo ottieni a bassissimo costo, ovviamente. Non ti dico che cosa si può ottenere da qui, il mondo, questo lo vediamo la prossima volta, il mondo. Veramente, ma in questo contesto qui vi devo solo dare una indicazione, che è una indicazione di carattere del tutto generale. Quindi noi ci possiamo fare dai glucosidi composti furanici o composti piranici, quindi a 6 termini eterociclici o a 5 termini. Come ci mettiamo l'azoto dentro, lo zolfo, l'ossigeno e altre cose. E possiamo utilizzare questi composti per fare composti chirali, cioè vengono detti anche building block chirali, cioè chironi. Cioè, i chimici poi si inventano queste procedure, perché noi abbiamo nell'ossidosio, nel fruttosio, un sacco di centri chirali che quindi ci possono servire per ottenere alla fine molecole otticamente attive con eccessi enantiomerici elevatissimi, perché l'ha fatti la natura. E quindi sono pure, da un punto di vista di optical purity. La cosa che mi interessa in questo istante accennarvi, e poi magari la riprendiamo la prossima volta, è che te capisci subito che la reazione è andata in questo modo perché? Perché sono tutte reazioni di equilibrio, e alla fine che cosa conta? Il fatto che ottieni una molecola come il furano, che è aromatica. Quindi la stabilità del prodotto finale garantisce il successo della reazione. Queste reazioni di eliminazione di acqua le fa in catalisi acida, ma vi ricorderete dall'organica 2, se qualcuno ve l'ha detto, che il furano, come vede, non ha più, si sputtana. Bene, perché quello lì no? Quello lì no, perché è fondamentale comprendere che c'è un gruppo elettron disattivante alle reazioni di attacco elettrofilico, che è CHO. Cioè il gruppo aldeidico che si forma sull'anello aromatico impedisce, o comunque rallenta moltissimo, l'aggancio di un H+ sull'anello furanico, e questo rende la 2 furan carbaldeide abbastanza inerte per potersela portare a casa e poi farci tutte le cose che vuoi, perché se non ci fosse alla fine questo gruppo CHO, questa reazione non servirebbe a niente, perché come si fa il furano nell'ambiente acido che ti è servito per fare la reazione di eliminazione di acqua e calore, si polimerizza immediatamente, diventa tutto nero in un miliardesimo di secondo. Bene, perfetto, ma perché si è formato il ciclo a 5? E perché si è formato quel ciclo a 5 lì? Non se ne poteva formare un altro, oppure formare un ciclo a 6 con l'OH che reagiva, come c'è scritto sui libri, con il gruppo carbonilico dell'xilosio, formando un ipotetico acetale aperto fatto così, dove qui c'era OH, OH, OH, OH, OH, OH. Non si poteva formare questo, no? Ecco, qui bisogna capire che ci sono due o tre cose fondamentali. Abbiamo già detto che questo è un emiacetale ed è stabile. Questo emiacetale qui, poverino, è stabile. Perché, ve lo ridico, c'è un intervento di natura stereoelettronica che prevede che questo orbitale qui pieno si sovrapponga all'orbitale vuoto COH vuoto e ci metta i suoi elettroni dentro. Tutte le volte che io ho qualcosa che stabilizza la molecola, devo avere un orbitale pieno che mette gli elettroni in un orbitale vuoto, sempre. Perché le molecole hanno un equilibrio conformazionale di un certo tipo? Sì, negli anni 50 si pensava ai gruppi grossi che si allontanano tra di loro. Ma quale? Sono gli orbitali pieni e gli orbitali vuoti simili che si sovrappongono tra di loro. Funziona così il CAM, Computer Assisted Molecular Motion. Quando te minimizzi l'energia al computer, il computer va a fare il calcolo dell'energia degli orbitali pieni e vuoti e sovrappone nelle varie conformazioni gli orbitali pieni e gli orbitali vuoti insieme, e fa quello che noi stiamo facendo qui sulla lavagna. Conta quasi 3 kcal questa cosa qui. Quindi e conta tanto, per cui questo, pur essendo un emiacetale ciclico, bloccato, in qualche modo non si distrugge, la sua forma al 98% in soluzione acquosa è chiusa, è un emiacetale stabile ed è anche il motivo del perché il DNA è fatto così, tra le altre cose. Perché il DNA è fatto così, ci sono l'acido desossiribonucleico, desossi, è un pezzo di zucchero che è chiuso in forma emiacetalica. Pensa quanti gruppi emiacetalici ci sono. Il DNA si dovrebbe aprire come una lasagna al forno, e invece è lì ed è stabile. Tenete presente questa cosa, vedete? Quindi quante cose non si sanno sugli emiacetali. Quindi, innanzitutto, io mi dovrei aspettare una cosa così. Che cosa succede quando lo zucchero, il glucosio in forma aperta, lo butti nell'acqua? C'è il problema della mutarotazione, sapete dall'organica 1, la mutarotazione del glucosio. Il glucosio si chiude, si riapre, si chiude, si riapre, si chiude, si riapre, e i due anomeri si equilibrano tra di loro. Non è vero che succede così. Questo succede dopo, perché c'è una cosa che succede prima. Quello che c'è scritto sul libro è la cosa termodinamica. Prima c'è una cosa cinetica, cioè il glucoside si chiude a 5 termini. Cioè La chiusura a 5 termini è più veloce della chiusura a 6 termini, ma la chiusura a 6 termini è termodinamicamente più stabile della chiusura a 5, perché ovviamente un anello a 6 termini ha una termodinamica migliore. Perché chiude prima a 5 termini? Chiude prima a 5 termini perché un signore che si chiama Baldwin ha costruito delle regole che si chiamano regole di Baldwin, per cui la simmetria degli orbitali è fatta in modo tale che gli orbitali pieni e gli orbitali vuoti, quando una molecola si chiude, cioè una parte acida da una parte e l'altra parte basica reagiscono insieme per fare un legame, bene, quando questi orbitali pieni e vuoti sono in una molecola a 5 termini, l'orbitale pieno si trova più facilmente antiperiplanare all'orbitale vuoto che deve uscire. Invece, quando la molecola è più lunga, e c'è un angolo diverso e quindi la sovrapposizione è più piccola. Quindi a 5 termini si chiude più velocemente che a 6 termini. Ma queste saranno le regole di Baldwin, che vediamo la prossima volta, se no sforiamo e ci fermiamo qui.